Italia in controluce. Italia in controluce, il racconto della cronaca su Radio 24, condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Pierpaolo Pasolini, ultimo atto? Stando alle ultime indagini sulla morte del poeta e dello scrittore, pare proprio di sì. Sembra dunque che si sia imboccata la pista più importante, quella giusta. Floriana Liuni. Riscontro come causa del decesso lo scoppio del cuore, provocato dal sormontamento dell'auto. Per colpirlo pare che abbiano usato una targhetta qui del cancello rosa. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è un cadavere. Così Marco Tullio Giordana ricostruisce la morte di Pierpaolo Pasolini nel film Pasolini, un delitto italiano. La notte del 2 novembre 1975, lo scrittore e regista fu picchiato a sangue e investito da un'auto all'idroscalo di Ostia. Un solo colpevole paga per questo delitto con quasi 10 anni di prigione. È l'allora 17enne Giuseppe Pelosi che quella notte si era appartato con lo scrittore, ma è evidente che il ragazzo non può aver compiuto da solo quel massacro, infatti è riconosciuto colpevole in concorso con ignoti. Chi poi siano questi ignoti e perché abbiano ucciso Pasolini, per 30 anni nessuno se lo domanda. L'avvocato e senatore Guido Calvi. Una volta arrestato Pelosi non è stato fatto assolutamente nulla, anzi, perché gli elementi che potevano essere raccolti non sono stati raccolti e quelli che c'erano sono stati cancellati. Penso alla macchina dove c'erano tracce di sangue e tracce di impronte, avendo lasciato l'autovettura per giorni e giorni in cortile sotto la pioggia, evidentemente sono state cancellate. Nel 2005 il caso si riapre. Giuseppe Pelosi dichiara in televisione di aver coperto i veri colpevoli del delitto Pasolini perché minacciato di morte. Ecco la sua testimonianza nell'inchiesta Profondo Nero di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. Stavo lì con Pasolini, abbiamo fatto quello che gli ha dichiarato, stavo urinando vicino alla rete, è spuntata una macchina scura e una moto. Cinque persone, tra moto e macchina. Sono stato afferrato, minacciato e picchiato. Sempre nel 2005 spunta un filmato girato pochi giorni dopo il delitto da Sergio Citti, attore e amico di Pasolini. È l'avvocato Guido Calvi a raccogliere la testimonianza di Citti, il quale, malato, morirà di lì a poco. Ecco le sue parole. Il film lo girai perché parlai con questo pescatore che mi raccontò ciò che aveva visto. In base a quello che lui aveva visto, io ho filmato. È stato preso, tirato fuori dalla macchina con quelle altre 4 persone che sono scese e l'hanno portato addosso a quella rete e lì hanno cominciato a picchiarlo. È stato proprio quello che ha visto il pescatore. Citti, che aveva chiesto più volte di essere interrogato, rimane inascoltato. Nonostante i nuovi elementi emersi, il caso Pasolini si chiude nuovamente. Perché tanta reticenza? Chi voleva far tacere Pasolini? Che relazione c'è tra la morte dell'intellettuale e Petrolio, l'ultimo romanzo di Pasolini? Una parte di Petrolio in cui si svelava forse il segreto della morte di Enrico Mattei e Mauro De Mauro è scomparsa, ma nel marzo del 2010 ricompare tra le mani del senatore Marcello Dell'Utri. Guido Calvi. Dell'Utri ha confermato che una persona si era recato da lui con questo capitolo che gliel'aveva dato e lui l'aveva letto, però poi non era più comparso. Lui non sa chi sia, non ha preso nome, non ha preso cognome, che mi sembra un po' singolare, comunque così è. Il caso si riapre nell'aprile 2010 per iniziativa dell'avvocato Stefano Maccioni e della criminologa Simona Ruffini. I reperti che sono attualmente in esame presso i laboratori del RIS di Roma sono fondamentalmente gli abiti indossati da Pasolini, da Pino Pelosi e degli oggetti personali di Pasolini e soprattutto sono i famosi pezzi di legno sui quali fu picchiato il regista. Io sono molto ottimista, penso che adesso forse è il momento in cui si saprà qualcosa di più. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Italia in controluce. Criticato e additato per secoli, il pettegolezzo vive ora il suo riscatto. E nella cosiddetta economia della relazione funge persino da motore economico. Ce ne parla Maria Luisa Pezzali. Già